il cazzo. Hai capito? Io sono, faccio parte di quella grande schiera di persone che si sta rinfoltendo sempre la schiera, che non hanno bisogno di te, che ti manderanno a casa, vai a zappare. E vabbè, vuol dire che andrò fatto a rubare, cosa che tu ci posso fare? Vai a fare zappe per pali, vai a fare zappe per pali, vai. Posso fare altro, non è un problema, io non mi demoralizzo, vuol dire che mi rimettere in discussione. Dai, ti chiamo dalla macchina. Scappa. Attenzione canale 10 per chi ascolta. Ciao Sandro, Cavaliere, oggi stai arrivando con un Santiago di 7, una radio di 2 e 3, dai, 2, più 2 che 3. Di traffico perché sono tutti impegnati a fare l'alberello di Natale con giustamente con la propria famigliola e anch'io sto aspettando per andare a farlo e vedo un attimino, dai. E tu cosa stai facendo? Come vai già a casa? Ah vabbè, oggi è sabato mio. Oggi era anche qua a Sassari. Guarda un po' come ti sto arrivando. Vediamo di... no, troppo, Guarda un po'. Hola, come ti sta arrivando? No, negativo, è tutto mio, tutto merito mio il picco negativo. Aspetta che devo centrare un attimo, Adesso dovrei essere al limite, dovrebbero rimanere positivi comunque. Ah. Tipo, non ti ho copiato, hai detto un difetto che avevi tu sul tuo K? Ah. Assolutamente sì, hai perfettamente ragione, sai che io me ne rendo conto più dall'alimentazione che dall'altro. Cappa Roger, lo prendo, prendo il tuo consiglio per buono come sempre, assolutamente. Ho sentito un break, avanti il break. Quindi ti l'ha fatta la bocca e ti copiamo bene, dai. Sono Paolo Falcone, sono. Ecco. Cappa di oggi, ben sentito, ben ascoltato il gatto. Dall'altra parte, non so se riesce a copiarlo, c'è l'amico Sandro Conan da Alighiera. Saluto la partita, ma io sono a Sassari in macchina, quindi ripeto che l'ascolti. Cappa di oggi, Sandro, non riesce a copiarlo Fabrizio. No. Ciao Sandro, se mi ascolti, ma sono in macchina in mezzo a Sassari. Cappa di Roger, ci stiamo... E cappa perché in barra mobile a Sassari all'interno delle vie c'è anche l'Antonio Bombolo. Buonasera a tutti, grazie. Così mi piace. Però adesso dovevi partire, volevo sentire una pernacchietta dopo la presentazione. Pernacchietta, io non hai fatto pernacchia. No, infatti lo sto dicendo a chi la fa di solito quando faccio la presentazione. Gaffa. Se tengo io lo trappo da, se lo mando a fanculo e lo trappo da pirla. Fai bene, fai bene. Avanti Sandro. Riesci a copiare Antonio? Attenzione Sandro Conan. Scusa la pernacchia. Oi. Si suona un po'. Figlia. Quello è un amico, Aspetta, mi è andato in protezione l'alimentatore. Che palle. posizione? Non ha visto a quella. Allora, no, perché il vento molto spesso la polarità di quel neurone, capito? E quindi la protezione. Allora, ha bruciato tutto. Che palle, oh. Non so per quale motivo sta andando in protezione, boh. Musacci. Fabrizio, ma Fabrizio è in macchina? Sì. Sì, sta arrivando un cortino. Lune sole, ma la parte bassa, di Oriani. Però lo sto facendo qualcosa, no? Ora. Certo. Ora. Eccolo qua. Un attimo. Adesso va bene. Mi ascolti un po', no? A voi che ti ascolto. A volte mi arrivi addirittura molto forte, mi arrivi. Vabbè, segnale oscillante, dai. Con le macchine che sono zona lune sole, infatti posso dire lune sole, piatti a Torrino. Ah, gaffa, già lo so rompe. Qualcuno è forte, non c'è niente da fare, capito? È la scienza questa. Questi non sono, questi come si dice, grosse, correggimi, sono questi come dice, non sono iscritti paranormali della presa pubblicità. Vabbè. Aspetta che sta succedendo un po' di casino qua. Così mi piace. Per carità. Dove sei, Fabri? Ora sono vicino a Piazza Torrino, sto andando via Gravetti più o meno ora, e dovevo abitare mia suocera per prendere il bambino, capito? Sì, un po' troppo amplificato con quel microfono. Hola. Mi ha detto che è quindi. Che è che sta sovramodulando? Adesso meglio va così, forse avrò la bocca troppo vicino. Non corro troppo, non ti fa niente, perché pure andrà a portare. Ok, ti va bene ora? Sì, no, è la ripetizione un po' strana, ma già va bene, dai. La ripetizione è un po' strana, ma già va bene, ma scusa, ma cosa c'è importante mi sta sorpassando? Assolutamente. Non ce la fanno. Arrivava qua, è oscillante, 9, 8, 9, dai. Oh, ti piace di più così, grosse? No, a me piacciono più i vecchi asciutti. Dobbiamo per regolare così, e tu mi dici che non va bene, ma vedi ti raccolta, aspetta. Ora meglio ti va. È preciso, comunque, ma su quanto ce l'hai? Dammi i parametri. Più di 2 e un po' più di 2. Ultimamente lo 2 e 2, va benissimo. Sì. 9:20? Così meglio va la radio, bombolo. Sì, la radio va bene, il segnale è fortissimo. Allora vuol dire che sta funzionando bene questi impianti dove la macchina, dai. È la luna e sole, se ti arriva 9:20 dalla macchina, andare. Oh, un attimo di bianco che prendo il bambino e poi riprendo. Se vedete il giorno che vi faccio vedere come esco io, dite, ma come cavolo fai a uscire? Lo so, l'importante è uscire. Un attimo di bianco, riprendi i grosse. Aspetta Roger, chi è rimasto in linea, in ruota? Così mi piace, nessuno. Aspetta un attimino, bombo, vi sto facendo una cosa. Dai, pure io devo andare a fare commissione. Dai, faccio la commissione, dai. E se lo sentiamo. Tutti spariti? Attenzione, grosso. Chi è? Un riprese, spariscono tutti, tanti, ogni assente tutti spariscono. Aspetta un attimino che sto prendendo una cosa e rientro subito. Ascolto. Allora. sera, Gian Maria, lascia la portata un attimino. No. Allora qualche domanda, vai. Sembrava che c'era un po' alternato. Deve essere qualche domanda. No, sono in macchina, io ho in movimento, Gian Maria. No, perché sentivo una portata, l'alternato, poi. Come l'ho detto, Fabri. Buon proseguimento, ciao. Ciao, Gian Maria. Pantera mi può ancora abbordare. Ma tu te l'ha messa lo stesso? Mio. adesso mentre stai parlando ho dato due cuschi. Io parlo l'accento che sta portando. Ma bravo, ma bravo. Ma stava parlando da un'altra parte, in un'altra stazione. No, ma ti sto capendo a tratti perché come moduli ti sta dando due colpi importanti ogni tanto. Mi è provocato, attenzione, quant'altro lo so chi sei. Tanto lo so chi sei, mi è provocato, appena che ti sento sono cazzi tuoi. Non ce la farmi incazzare. Ma tu lo stai copiando, Fabri? Voglio portare nemmeno un assento qua. Ma tanto lo trovo, cazzo, lo becco, chi è? Cazzo, ti giuro che questa volta ti faccio un bel male. Poteva mettere poco fa già, che ero di un'altra stazione, già si poteva mettere. Ok, dai, vi saluto, ciao. Ma tu rimani, ma qual è il problema che ti stanno mettendo la portata? Ma puti dimmi. No, devo andare a fare commissioni, Anto, se no volentieri. E vedrai che il bisticheggio sparava di Antonio. E quando il bisticheggio gli posso un bel mare al signorino. Sì, non è arrivata la metà qua, Pronto, Ragazza. Mi cercano il parcheggio, se tocca io devo cambiare la caviglia, e pure riscendo in macchina, se trovo il parcheggio però. Trovato. Culone. Felicio, sì, Fabri. Ciao Clara, ti ho chiamato per salutarti, poco fa non so se mi hai sentito. No, ero nel salone che stavo facendo l'albero. L'albero già fatto io, mia moglie l'ha fatto con i bambini mentre stavo lavorando io. Cavolo, ci sentiamo dopo che stai a casa, devo mettermi a cambiare la camicia e poi riprendo da davanti. Comunque poco fa ti ho chiamato e ti saluta Claudio, un paio di giorni non lo sento. Salutoni, ci sentiamo fra 5 minuti. Io, d'accordo. Ciao Fabri, ci sentiamo tra 5 minuti allora. Cosa c'è, Grotte? Cosa c'è? Cos'è questo bordello? Senti, quando non c'è lo sparviero è cosa? È anarchia pura. Cosa c'era? Dei turbatori pazzi. Intanto si sentiva. Dai, ancora i crivelli, siamo. Ui. Il bello, il brutto è altro. Scusate un attimo, buonasera a tutti, signor Archimede. Poi l'hai visto il filmato su Facebook, Antonio? Ma sai che cos'era, Massimiliano? La batteria del coso, del microfono, dove vai? Ah, vabbè. Ciao Fabrizio, ben sentito. Ciao, Fabio. Vabbè. Ti è piaciuto lì, come ha fatto il filmato? No, bellissimo, ma quel software l'hai fatto tu? No, magari. No, quello è il nuovo ricevitore che io utilizzo. Vabbè, quello è software di gestione, poi dietro attaccato alla USB c'è una scatoletta che fa tutto. Serve il Perseus SDR. Se ti interessa vedere che cos'è, vai su Google, fai Perseus spazio SDR e vedi che cos'è. È un prodotto italiano, conosciuto in tutto il mondo, è abbastanza competitivo con molti strumenti blasonati e costosi. Dunque, chi l'ha fatto? Davvero molto molto interessante, per quello che si è potuto vincere. Comunque gli do uno sguardo adesso. Poi vai su Google, fai S0 GUP spazio Perseus spazio SDR e senti una, ho fatto una demo in 40 metri, in 20 metri, vedi un po' come si comporta. Ma non mancherò di dargli un'occhiata, ma ho sentito un break per caso, Claudio? Chi è? Un mio! Che qualcuno mi ha salutato? Break. Sono registrato il break, avanti. Salutoni, Daniele è da questa parte, salutoni a tutti. Ciao Daniele. No, negativo, c'è stato un break, Claudio, mi è sembrato Daniele, l'amico Daniele, fallo entrare tu, gentilmente. Sento basso, ma sto uscendo, sì. Ma chi, io o tu? No, quello che ho salutato non ho capito chi è. Avanti Daniele, per il grode, vai. Ma salut- Antonio e Claudio, ben sentito a tutti quanti, dopo tanto ho riacceso questa vecchia caffettiera. Ma l'hai copiato Claudio? Ma comunque ben sentito l'amico da questa parte, alla stazione Grode, modulatore Antonio che ti supercordializza, qua stai arrivando con lo Santiago di 9.20 e Radio 5, non so la tua zona in modulazione, la mia è ingresso Sierra Sierra via l'Italia. La mia è zona, diciamo, Canica Alto. Il tuo nome di stazione qual è, Daniele? Daniele Joker. Claudio, sì, mi sembra di averlo già sentito in passato. Claudio, avanti per l'amico Daniele Joker. Okay. Attivo per Claudio, avanti con chi è rimasto in ruota? Daniele, stavo dicendo, con che apparato stai modulando? Adesso prima c'avevo un... Lafayette. Poi adesso ho questo Intec, un M110 Plus. Ottimo apparato, credo che sia anche modificabile, nel senso che è quello che ha automande diverse, no? Sì. Ma quello lì, se fai saltare un botticello, credo che ti dia 400 canali, se non sbaglio. Ferro qual è però? E guarda, quello lì è la cosa più semplice di questo mondo, perché se lo scoperti si vede subito. Ma è il 110 o il 120? Qui è il 110 Plus. Guarda, se lo apri dentro ha un ponticello che hanno fra l'altro risaldato, nel senso che è stato disaldato e tagliato e dopodiché è saldato, proprio per farti vedere qual è. Ho capito. Aspetta che provo a aprire la curiosità, bianco per me. No, ma io se vuoi ti guido passo passo, Certo. Daniele Joker da Canica, qua sta arrivando con un Santiago di 9.20 e una radio di 5. No, qua è Santiago 9, ciao Daniele Joker, buonasera. Se l'ha anche ben risentito. Ah sì, Daniele Joker dei vecchi anni. Mi pare che eri tu così. Fagli Rogero, esatto, sono sempre io. Sempre più impegnato, sempre più correndo da un punto all'altro. Qui nella mia officinetta c'è tutto un casino, quindi non c'avevo manco tempo di riaccendere. Adesso l'ho messo così. Io facevo delle prove, me lo sono trovato sotto mano, ho fatto io da riaccendiamolo. E hai fatto bene, non ti perdi niente, guarda, se non lo accendevi era di lusso. Ogni tanto va anche acceso, se no alla fine si rovina. È attivo, questa è la negatività di chi ama la 27. A me no, il baracchino mi è sempre piaciuto. L'ho usato per tanti anni, poi è la famiglia, è i figli, è scuola, è lavoro, ritornavo tardi a casa, siccome ci dice nell'officinetta che mi avevo fatto, è un po' staccato dalla casa, quindi e poi c'è un freddo, un'oga, e quindi niente, l'ho mollato un po' per quello. Spiegazione di quello che ho detto, nel senso che è un po' come le donne la 27, la odiamo però gli stiamo sempre dietro, capito? Lo so, però purtroppo tante volte non riesco, guarda, dico una cosa, c'ho la barca che se sta ridendo, 2 anni fa sto pagando bollo, assicurazione, ogni tanto il porto motore, una volta l'anno a farle cambiare la girante, quest'anno l'ho cambiata, non l'ho mai usata, sono 2 anni fermo. E lo so, capita così. Dai, prova a aprire un attimino che vediamo se riusciamo a fargli. Perché tu non hai, se scorri le mande, non hai la manda che ti manca, che è la RU, RU. Ma che ci mi manca qui? Ci manca una banda che si chiama la RU, che compare nel momento in cui gli dissaldi quel ponticello. Prova a aprire l'apparato e ti dico. Bianco per me, dai che lo apro. Qua c'è la radio uguale a tu. E il modello precedente, noi c'è il 120 e il 110, ma sono tutti uguali, hanno tutti la stessa scheda dentro. Ecco le... Oh, vabbè. Invece devo aver fatto danno, ho attaccato questo portatile, questo Indicom 52S, è ricchissimo. Evidentemente ho invertito la polarità, non se ne è accorto, nel trasformatore, nel baracchino me l'ha bruciato. Vecchio, però sicuramente c'è il diodo di protezione, il diodo, non dovrebbe avere un diodo zener di protezione. Sicuramente sì, avrei bruciato quello. Basta tagliarlo, dovrebbe andare di nuovo in coso, no? Sì, Sicuramente sì, se c'è, se il corpo circuitato sì, ma di solito sono tutti così. Sì, aperto. Ok, allora se tu guardi, si dovrebbe trovare vicino alla mascherina, adesso io non ce l'ho sotto il mio, però se tu guardi, dovrebbe, mettendoti la mascherina davanti, dovrebbe essere lì vicino, trovi una specie di ponticello con una goccia di stagno. Aspetta, da quale parte? Dalla parte dove ci sono tutti i condensatori o dalla parte della scheda? Aspetta un attimino che prendo lo schema e te lo dico subito. Ci sei? Sono. Allora, aspetta un attimino. Aspetta un attimino che sto aprendo un attimino il diagramma. Allora, guarda che si chiama LK1 e lo trovi esattamente al centro. Esattamente dal centro, vicino al condensatore 76, al condensatore 23. Aspetta, fermo. Allora, condensatore mi ha detto 26, vediamo un po'. C2, dove sono? Aspetta un attimino, allora tu metti la mascherina verso di te. A un certo punto, se tu guardi al centro in basso, vedi proprio un ponticello che si chiama LK1. Ed è tagliato, però c'è una gocciolina di stagno. Guarda che risulta essere un po' nascosto, è un po' difficile da trovare perché nascosto dai cavi, ci dovrebbe essere un fascio di cavi che si dirama da lì. I cavi è vero che sono centralmente, ma non riesco a vedere. Si trova tra il condensatore C23, aspettate, C23 e C... Cosa c'è scritto? C... e C14. Guarda che, considerando che sono degli apparati che non hanno più niente dentro perché sono tutti microcircuiti circuitati, hanno solamente un ponticello che è quello, LK1 si chiama. Batte la pesca. Allora io ce l'ho di fronte, perché poi dalla parte dove ci sono tutti i condensatori, perché dall'altra parte è un casino, ci sono, è un micro, sono micro resistenti, quindi non, meglio non toccare niente lì. Allora, se tu guardi i condensatori te li trovi, il gruppo dei condensatori, in basso a destra, giusto? Basso a destra, no, proprio in basso a destra non c'è una mazza, sono più tutti a sinistra. Aspetta un attimo, io vorrei che si fosse completamente, perché io ho quello dell'M120 Plus, ma sono simili, sono molto simili. Non vedi di fronte a te nessuno, guarda, è talmente fine, è talmente piccolo che è per questo motivo che non si trova. Allora, qui c'è un C2, no, questo qui c'è una specie di condensatore con un ponticello saldato sopra e quindi non mi sembra quello. Negativo. Allora, tu devi andare, proprio si chiama LK1, non ce l'hai un diagramma blocchi? Dai, un momento. Il problema è che questo L che mi ha detto tu non è becco nemmeno uno, cioè tutti i punti che ci sono scritti con SJ 71, 72, 77, capito? Una mattina, sto controllando su internet, ti dico subito. Bene. Sono due minuti, ti dico subito tutto. Sono qua. Tutti morti su questo canale? Negativo, c'è ancora qualcuno vivo. Avanti. Ma io sono Joker, tu? Cioè Daniele, là. Tu? Ciao Daniele, apri il tuo piegato da questa parte. Non mi arrivi vaccino perché sono in macchina io. No, tu mi arrivi abbastanza bene, non so quanto però perché non c'è un indicatore niente in questo bidone. Poi mi arrivi di radio un po' amplificato, un po' troppo, forse un po' compressa, però si sente benissimo. Ok, no, il tuo segnale è buono. Perché la radio, hai una radio facile, quindi c'è un po' il QRM. Ho capito, in che zona sei? Vai, curiosità. La zona, dove sono? È proprio l'Italia, nemmeno, dai, via Napoli. Dico io zona Caniga Alta. Allora voglio, già va bene, dai, stai arrivando bene, io sono in mezzo al palazzo, il problema è che c'è la radio non amplificata e quindi non spinge molto. Sono con un mic statico, quindi proprio normale. E sì, quindi come mi muovo io magari tendo a perderti un po', capito, anche se il segnale è buono. Capa, che c'è questa... Vabbè. No, io prima ce l'avevo in macchina, poi l'ho tolto, non... Ce l'ho nel camper, ma in macchina no. segni? Si conferma LK1, LK1, devi trovare il ponte LK1. Te la pesca dove cazzo è? Te l'ho detto, guarda, dovrebbe essere assolutamente quello che ti ho indicato, dovrebbe trovarsi nella zona, devi spostare un po' quei cavetti, è talmente fine che si vede solamente la gocciolina di stagno, capito? Che li rimettono perché è legale nell'altro resto d'Europa e non è legale chiaramente da noi. Ma come è scritto? LK o SK? No, no, Lima Kilo 1. Ascolta, qui vicino ai sotto i cavi non c'è una mazza. Guarda, è talmente invisibile perché stavo guardando anche nei forum, è una cosa che non si, talmente piccolo che non si vede, proprio un piccolo piccolo come ponticello. Ho detto LK? LK1, 1. Io ho scritto con LK, non ne ho assolutamente, stavo guardando anche lo schema che ho qua, LK non se ne vede. Aspetta un attimo, ti dico ancora meglio come arrivarci, aspetta, continuate un attimo nel tuo cervello, arrivo subito. Ah. L'amico di Via Italia, di Napoli veramente era. Ma scusa, sto provando una cosa. Stavo battendo i microfoni, scusa. Aspetta, c'è un problema. Senti l'amico, ti sento piccolissimo. Avanti. Attenzione, 10, presto. Avanti. Ogni tanto è una di invenzione. sono 6 giga. Se ti mancavo, se sono di domenica ne ho 21. Ho fatto due baracchini, uno e coso. Ma che è bello destreggiarsi. Magari ne hai due fermi, ne fai uno buono, va bene. Ho capito. No, ma lo sai cos'è? Adesso ero lì, macinando. Poi ho detto, ma quando mai è così complicata sta cosa? Ma quando mai è complicata? Ho provato così al volo, ma magari dipende anche dalla capsula, Ma adesso va bene, adesso va bene, è dall'inizio che tu avrai toccato qualcosa, non so cosa tu abbia toccato, se è l'amplificazione, se non so cosa ti posso dire, se è il mic che viene l'apparato, non lo so, però adesso va bene, in confronto a poco fa. No, diciamo che ho aumentato leggermente, diciamo, il mic gain suo, capito? Il mic gain suo, Gianni, tutto lì. Oh, come si intende, sei basso basso poco fa. E di la voce, sì, quando sono stato sotto casa tua era tutto tranquillo, poi come mi sono tolto un po' sta disparendo completamente. Ho capito, dai. Va bene. Allora, prova. Guarda, adesso sto aumentando lì il macchinetto del volume. Com'è? Sì, tutto non è spento. Scusate gli amici, attenzione Joker. Sì. Sto scaricando un po' lentamente da internet il diagramma, te lo dico subito appena riesco a scaricarlo, dai. Curiosità, allora io stavo guardando tutti i ponti, io ce l'ho segnati con SJ, io ho trovato un SJ1. Fai una cosa, sali di due canali, fammi la quanti, scendi di due, vai al canale 8. Scusate la ruota. Ma Sandro, sei tutto un esperimento sempre. Sì, grazie. Vai su 12 Claudio. Hola, che sei su 10, prego? Gianni? Buonasera, dai, il doppio lungo che vi supercordializza. Chi è? Avanti. Chi è? Gianni, doppio rucchi, dove sei? Sono ai punti, sto andando un attimino ai punti, dimmi. Dove sei tu? La Budibudi. Cosa faceva la Budibudi? Ho accompagnato il suo bambino. Ah? Vai, io mi devo fermare 5 minuti ai punti e poi magari ci sentiamo. Che cappa? Ma già. Negativo? Ma che ho detto di mangiarsi un panino, sai dire? Ma? Andare a mangiarsi un panino stasera, ho detto, sì, già, bene. Per me non c'è un problema. Ti sento un bel male, Giuseppe, ma male barone. C'è tutto fatto, hai detto tu? Ma male? Sì, c'è tutto fatto. Spiegare quella cosa con quel palapparato nuovo. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso va me. Già, non lo so. Vedi tu, adesso io tanto non me devo neanche cambiare. Se no passi a casa, mi prendi e usciamo, boh. Io me devo lavare ancora, non è che esco così, no. Me devo lavare, ma prima devo passare, se ho detto non è questo animale, devo comprare roba. Poi qui ha i punti che è ancora aperto. E poi magari ci sentiamo per telefono, decidiamo per telefono cosa fare. Vabbè dai, vedi tu quando è finito mi fai uno squillo, capito già? Va bene, allora, io sono arrivato, ti saluto e ci sentiamo dopo, ok? Ok già, ci sentiamo più tardi, quando è finito di tutto, dai. Vediamo. vicino. Cosa vero? Ma sei piccolino oggi. Non sempre piccolo. Ho appena tre volte arrivato più forte, hai toccato qualcosa? No. No, no, non ho toccato niente, no. No, la radio è bella, ti sento basso, ma forse che sia un po' il tempo. E allora come va? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Senti, e oggi non la passi da qualche parte la serata, chiuso in casa, anche tu? No, forse... Ah, e dove vai di bello? Boh, non lo so, devo ancora decidere. A buttare, sali? Guardo, ando a andare sui quattro vulcarotti. No, e vai lì, a dolce vita che c'è gente un pochettino in, in andare ben vestito, con le scarpe eleganti, i jeans neri o qualche maglietta, sai? Un pochettino vestito da signorotto, allora ti puoi entrare tranquillamente. Ah, il signorotto. Entro in vita di scorteca, riconquisto tutte. Vedi, con la scusa, ne approfitti. Forse se te lo dico, si è abbassata ancora di segnale. Non sono abbassata di segnale, vuoi vedere? Prima eri Santiago 4, adesso sei Santiago 2, ti sei arrivato. La radio però è bella, molto comprensibile. Sì, hai abbassato. Come è possibile se non ho toccato niente? Infatti ora, prima quando gli altri giorni arrivavi Santiago 5, una bella radio di 5. Poi quando ti ho detto che di piccolino ero un Santiago di 4 e ci sei un Santiago di 2. Però la radio è sempre la stessa, abbassato di Santiago. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Si può entrare o no? Prego, prego, buonasera anche a te. Ti accomodi tranquillamente. Buonasera, buonasera. In compagnia di Antonello Barracuda e Bombolo. Ok, buonasera Bombolo, Lino, Antonio e ciao Antonello. Luca da questa, avanti. Ciao Luca, avanti Bombolo. Luca, buonasera. Hai detto che ho fatto una cosighetta, dai, mi provavo ad attaccare il capo diretto senza rompere, ma mi sembra strano, abile si pompa di brusco. Hai sempre abbassato, a parte mia, sei sempre abbassato di Santiago, la radio è bella comprensibile, però stai abbassando, ecco da 3 sei rimasto a 2. Io vado bene, sì, tutto ok, sempre come prima, troppo alta, devo abbassare, devo sollevare, lo devo fare. No, secondo me sei perfetto, perfettissimo, qui sempre 9 più 10, a picchi positivi, non molto accentuati, però ci sono, è una bella radio comprensibilissima. Invece il popolo prima era a 4, poi è arrivata a 3, sono arrivata a 2 di Santiago. La radio è rimasta sempre invariata, è Santiago che sta diminuendo. Però si è migliorato. No, da parte mia è sempre Santiago 2. Non è possibile. Luca, non ho ancora arrivato. Luca, quando sta arrivando, popolo? Comunque come prima la radio, sì? Va bene. Ok, no. Questo così passa a perdo. Vediamo cosa non poco, dai. È sempre acceso comunque sia, ma sai com'è, questa radio se non riaccendi poi ci vogliono tanti soldi a metterla a posto. Va bene, là. Continuate che io vado a mangiare adesso. Che tanto, vabbè, non più. 9 più 20, segnale radio 5. Aspetta, se arrivi bene, va bene. Com'è possibile che io lo sento così basso? Non lo so perché lo senti basso. Vabbè, lui era un antennino. Scusa. Ciao, incantevole, benvenuta. Sì, io continuo, continuo, continuo. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, Antonello e Antonio, dai. Vado a mangiare. A dopo, ciao. Ehi, appetito allora, dai. Non riesco a capire, no, Antonello. dicendo una cosa a mia figlia, arrivo subito. Sta di dicendo? Oh, amico, mi senti? Ehi, già ti ascolto, già sono che tu, io, vabbè, probabilmente cambia la zona, però io qua, guardando nell'apparato che ho io, il segnale è aumentato, poi è sceso, non so cosa dirti. È strano perché io non ho toccato niente, poi sto facendo bene, ma non so cosa dirti. Vabbè, pazienza, cosa vuol dire? Però dico... a proposito, sai che ti ho visto? Nel sito di Claudio, è possibile? In tutta. In tutta è il sito. Eia! Se non sbaglio, no, se non sbaglio, sì, era una domenica, e il giorno c'era Domenico, non si è Tarzanetto, ma non Domenico era, sì. Poi con Domenico già ci conosciamo abbastanza bene. E poi ancora Claudio solo a fare delle foto per metterne sul sito internet. Ma non sbagliata, tu già te la sbagliata. Allora, fa la cortesia, così è per te, popolo. Non è che ci avrai qualche PL abitato male, perché stai sempre scendendo di segnale. Eia, adesso è di nuovo aumentato. Buonasera, Coello. Ehi, avanti, buonasera, chi sei? Doppio numero di rientro dal lavoro. Ah, buonasera, Doppio, ben sentito, ottimo segnale. Ora di rientrare a casa, stanotte non mangi. Purtroppo. Oggi ho finito tardi e poi mi sono fermato a 5 minuti ai punti. Devo fare roba e sto rientrando. Già va bene, dai. Ti volevo dire domani, domenica, su salite, sempre tempo permettendo. No, io non ci sono. Non hai voglia? No, non mi va. Non voglio... sto a casa, meglio sto a casa. Perché parli così? C'è solo qualcosettina che non so. No, ma mi va di stare a casa, non mi va di venire. Va bene, dai, non sai che la curiosità è donna, comunque. Sei compagnia mia in questo momento e di bombolo. Pagava. E te lo difendi. Te lo difendi. E tu cosa fai di bello domani? Non lo so, io domani mattina presto faccio i compiti con mia figlia, così dobbiamo uscire da qualche parte, siamo liberi, fare i compiti di mia figlia, devo fare a Patrizia veloce, e poi nel caso se ce la fate su, così sai, avrei fatto un salto, un'oretta, una chiacchieratina, e poi sei rientrata a casa, poi non so, domani sera qualche giretto, così state i negozi sono aperti, tanto per passare il tempo. Niente di particolare, non è che Sassari ti offra qui così tanto, ma lei cerca di passare la serata in modo diverso, anche se un pochettino sarà più avvicinato stasera. Speriamo che domani il tempo non si sconci. Stasera era bello, stasera anche il mare era un bel calmo, tranquillo. Stasera era bello, persone che ho 6:15 qua in paese, è iniziato un pochettino a più avvicinare, non più di tanto, comunque leggermente l'ha fatta un po' di acqua. Ascolta, nella punta in cui ti trovi, va bene come radio? Sono qua a Santoso, e va bene. Ma era comprensibile, va bene, sì? Sempre sotto casa. Va bene allora. Bombolo, sistemato, e siccome ho visto che poco non può segnare, c'è il tempo aumentato, mi detto avere dei controlli sui PL, adesso non so cosa stia combinando. Ci sei popolo, c'è il doppio rumore per i saluti. Sicuramente sta sistemando qualcosa. E il vicino non è rientrato? No, non lo so, perché non era? Ah, è la macchina quando poi mi sono fermato agli punti. Ho riacceso, vabbè. Penso che sia arrivato a casa, forse aspetta. Non ho sentito niente, la verità, io l'ho acceso 10 minuti fa. A vedere se c'era qualcuno, così, tanto il televisore non c'è niente. No, non ce l'ho sentito, c'è un po' di sbratteri qua sul 10 da parte di Claudio, che è sul canale 12, che stanno sistemando qualche apparato a Porto Torres, e non sono entrato per non disturbare, e poi ho fatto chiamata qua e ho trovato a Popolo. Ciao, Popolo, ci sei? Non c'è niente. Come si dice, è a Pomponio, ma è franco sta, non l'ho più sentito. Sì, è entrato l'altra volta, è entrato anche l'altra volta. Ma no, adesso non può pensare di dire, c'è uno che si attacca questa notte. No, magari. Niente, oggi la giornata lavorativa come è andata, raccontami un po'. Via. Così andate, ia. Ho detto come è andata oggi la tua giornata lavorativa? È stata pesante o l'ha passata nei migliori dei modi? Diciamo che questo periodo qua è sempre un via vai grande di brutto, sempre correndo, sempre sistemando, sempre facendo. E purtroppo, è il periodo. Metti la roba, scompare, dopo 5 minuti devi rimettere, ti stanca. Ti stanca perché è una cosa che fa ripetutamente e poi alla fine non ve la fai più. E quello già è bello tutto il giorno, giustamente. Ma comunque è finito primo, sempre nel nostro litorale, lì anche la chiudono, le 8:30, tu sei andato molto, molto prima via dal nuovo posto di lavoro. Ma ognuno c'ha i suoi punti. Ognuno c'è i suoi turni, io ho fatto il mio e ho finito ma sono andato, poi c'è quello che entra più tardi e va via più tardi, non è che tutti quanti vanno via allo stesso orario. Vabbè, giustamente io sono, diciamo, come orari lì nei centri commerciali non ho più panni di idea, ma uno pensa un po' anche con la scusa che chiudono, sai, 8:30, uno dovrebbe essere disponibile verso quell'ora. Diciamo ora c'è qualcuno che sta già sostituendo la tua mancanza lì. No, non lo so. Non lo so, non mi interessa. Quando sono fuori io penso a tutte altre cose. E già va bene, allora, adesso ti ho cercato la campo sicuramente dopo che ti sei rifornito parti a Sassari, ma parti a pescare lì a Porto Torres. Non ho voglia, sono uno che in questo periodo sono molto stanco, poi non ho voglia di tutto, di non mi dà l'entusiasmo di andare. Mi distrae, sì, ma non di stare a impegnarmi in certe cose. Quando ho l'entusiasmo mi piace anche, però quando sono così stanco perché ho dovuto far passare la porta. Tanti molti pesi alla fine, se sei preso un mal di schiena perché prendi pesi abbastanza voluminosi, così è. Anche in questo momento è mal di schiena perché, ma penso che lo sappia, penso di quelle fasce elastiche con i rinforzi nella parte posteriore della schiena, in modo che vanno bene anche durante il lavoro, in modo che tengo la schiena dritta e ti evitano di fare sforzi o trappi muscolari. Non so se l'hai mai usata queste fasce elastiche. Perché io quando ho avuto un incidente, quando 4 anni fa mi avevano tamponato, diciamo questa azienda mi aveva notato questa fascia elastica salvaschiena e ti dico che una mano santa se hai mal di schiena te lo fa passare. No, io mi ho messo la pomata e ti ho visto stasera a me. Però stamattina ero tutto un bloccato. Allora, io sono arrivato, Antonè, ci sentiamo alle prossime. Ciao! E io, ragazzi, ci sentiamo più tardi. Va bene, buona carica e a più tardi allora, dai. Dai, ciao. Bobo, ci sei? E ci sono già. No, guarda un mercato segnale, cosa gli hai fatto? Ho avvitato. Cosa hai detto? Gliel'hai avvitato? No, niente, niente, dai. Una battuta. Siccome c'è un po' di sbatti di Claudio e a volte ti compra alla fine, perché sto canale 12. Ma non gli hai fatto nulla, come mai sono aumentato di nuovo il segnale? Sicuramente lui che fa abbattimenti. Che sia lui che disturbi la tua modulazione? Sì, vabbè, non è un problema. Pure lui che fa modulare. Scusa, ma se deve aumentare, adesso da 4 te vai a 5, con picchi positivi. Vabbè, meglio così. Scappa. Scusa un attimo che fermo la sigaretta e arrivo subito. Non è fumare che ti fanno male. Chi è che vuole entrare? Fanno male le sigarette, fanno male. Ma ti fumi anche tu? Appunto per questo te lo dico. Ciao Silandia, ciao Giuseppe. Capo dottore, un secondino che me l'accende e arrivo. Capo, buonasera Sandro, mi senti? Capo che ti sento, vai. Piccolino, ma comunque ti sento. È importante sentirmi. Ma siete passati qua adesso? Non ti ho capito. Siete passati qua sul 10. Forse Sandro, Momolo si riferiva a me che era un attimino in canale 8 quanto può essere diretta sul 10. Dai, rimango in ascolto, sono qua. Mi sentite a tutti gli amici sul 10. Ok. Ciao Prode. Ciao Sandro, guarda che c'è una persona che sta chiamando sotto, Una persona che sta chiamando sotto, avanti. Le coperto, tale, vieni avanti Cicigno. Ti occupi? Negativo. Basso in modulazione, qualche amico di Sassari magari riesce a copiarlo. Quel Rix per me un attimo. Niente, negativo proprio. Lei è accesa? Tira. E già fumo leggero, dai, tu che sigarette fumi. Guarda, io ho cambiato, sto fumando le Camel One, quindi proprio a basso contenuto. Aria col gusto di fumo, dai, già le ho provate, mamma mia. No, devo leggere le Winston Blue. Poi le fumo tante, già diminuito, prima fumavo le Camel Light, già erano troppo fuori, dunque le ho mollate. Tanto piano piano sto diminuendo per buttarle via, che sarebbe anche ora. Anche io le fumo leggerissime, non ne fumo niente, sto troppo bene. Ecco, quella è l'unica soluzione, Giuseppe. E lo so, anche io sto cercando di eliminare. Anche se sono leggere, non sanno di niente, però è sempre un pezzo, è sempre una sigaretta. E quindi pian piano dobbiamo cercare di eliminarle. Io un anno e mezzo la sigaretta l'ho dimenticata, proprio l'ho messa, l'ho dimenticata io e non ne voglio più sapere. Sto benissimo, mi sento bene proprio, ho riacquistato tutta il piatto che avevo perso, adesso sto veramente bene. Già lo so. Già lo so, diciamo, vuol dire molto per la salute, per il fisico, vuol dire moltissimo. Vuole dire moltissimo, e vabbè, comunque, piano piano vediamo di fare questo sacrificio. Va bene, signori, un attimino di stand-by da parte mia. Riprendi, Antone. E già siamo qua. Antone, ti dico che io da quando ho mollato la sigaretta ho seguito anche una piccola dieta perché stavo ingrassando, quindi ho cercato di mangiare di meno, di contenermi, eccetera eccetera, adesso sto veramente bene, sono tornato l'Antonio di una volta, la sigaretta mi stavo uccidendo. Sì, quello pienamente d'accordo, perché io la verità sono stato 2 anni senza fumare, poi c'è stato un periodo brutto e stupidamente, perché la parola più pulita che si può usare è quella adesso dell'apparato, se no ne avrei usato più di una. Ho ripreso così, me ne fumo una, vediamo un po', così mi calmo un po', invece poi mi ha rifregato di nuovo. E si stava a bene, sì. Ma la verità non l'ho ingrassato, perché per fortuna non tendo a ingrassare, però sai, è vero, se sta bene senza sigarette, se uno fuma puoi smettere di fumare e ti accorgi che stai veramente bene. E no, la cosa migliore è buttarla. L'avevo fatto 2 anni fa, prenderla, mollato tutto un colpo, soffri una settimana, stai un po' male, e poi dipende giustamente da persona a persona, dopo quella settimana inizia a rinascere, sì, è la cosa più giusta da fare. E scappa. No, la verità, no, non ne voglio più sapere, ma se succeda quello che succeda, io di sigarette non ne voglio più sapere. Ma da qui ci sono riuscito, mi sono messo l'impegno, perché fumavo come un turco. Non c'era attimo che si dia la gicca in mano. E basta così, la mia esperienza ce l'ho avuta, non ne voglio più sapere. Voglio stare, i miei polmoni devono essere liberi e devo stare bene anche come perché ho fatto un lavoro pesante, non mi posso permettere io di fumare, perché devo essere sempre in forma. E beh, quello sì, con i pesi, facendo sforzi, il fiato, uno ne ha bisogno. Ma lo sai cosa hai fatto? Poi alla fine, durante l'arco della giornata, la sigaretta te la fumi dopo che ha lo stomaco pieno, dopo che ha fatto una bella mangiata, allora sì. Poi tutto il resto te le fumi così, per inerzia, tanto per fumare o te la godi quando c'è lo stomaco pieno, e quello è il discorso. Alla fine, durante l'arco della settimana, te ne puoi godere 2 o 3, dopo la colazione, un bel caffè, poi tutto il resto è così, buttate così al vento, quello è vero, C'è una bufia, no? Ma vai. No. Non ne voglio più sapere, non ne voglio, no, non mi interessa più. E poi io sono fatto così, Cioè, sono una persona molto precisa. Cioè, se una persona mi sgarra con me, non la posso più vedere. Ma proprio me la prendo forte. Proprio me ne scendo dalle balle, e così è per le cose, io quando dico una cosa devo essere chissà, e boh. Alla fine tu non sei un tipo che ti perdona, alla fine, così è, diciamo, non cerchi di, cosa ne so, vabbè, nessuno è perfetto per carità, ma non cerchi di recuperare, no, subito te la prendi a male, nel senso, no, e non cerchi di recuperare, di mettere in pace, no. La realtà di male essere più amici più di prima, non sei di quelli. Guarda, io cerco di capire sempre dove sta il difetto, però se capisco bene bene sono cavoli tuoi, e sono fatto così. Cioè, se capisco bene bene, prima, per esempio, con una persona, ho cercato di capire bene bene bene bene dove stava l'intoppo, e poi l'ho capito che cosa era. Mamma mia, quando l'ho scoperto. Guarda, lasciamo perdere, va, non te lo voglio dire. no, non è più forte di me, no, non ti posso dire, non è così. E giustamente quello dipende anche da carattere, per carità, bisogna accettare anche quello. Ma io la soccorro, non sto lì a prendermela più di tanto, tanto non ne vale la pena, no? Come si dice, uno può cercare di vivere il meglio possibile senza stare lì a... Ma prendersela più di tanto, tanto che mi stiamo solo di passaggio, chi è che non sbaglia alla fine? Poi giustamente sono punti di vista, modi di pensare, ognuno ha il suo carattere, metti tutto insieme, giustamente, esce quello che esce, tutto lì. Io sono fatto così, io ho un rispetto a ciò, e non voglio. E quel rispetto deve essere sempre fatto, devo capire io l'intoppo. Perché non c'è stato quel rispetto, ma se capisco che l'intoppo sei tu, sono a cavoli tuoi, proprio ti segno a vita, non hai capito? Sono fatto così, cioè non ho venuto da fare, non c'è niente da fare, non so dove io, cioè perché mi sento preso per il culo, hai capito? E quindi sono fatto così. No, perché poi queste cose la seguivano tutti i giorni, è la verità. Sono arrivato a un certo punto, guarda, per il mio modo di vedere, sempre il mio modo di vedere, se uno se la prende per qualsiasi cosa, alla fine poi rimani solo, sai cosa è com'è, no? Giustamente ognuno l'ha preso in un modo diverso, tante piccole cattative, alla fine, boh. Uno mi sento che rimani da solo, capito? Se inizia già a prendere con una cosa o con l'altra, poi giustamente se uno fa qualcosa di veramente grave, dopo che l'ha fatta grossa veramente, giustamente lì entra l'animale che c'è in te, giustamente ti devi difendere, ma ripeto, se si può evitare, sai che non ne valga la pena, si può evitare, si può andare avanti tranquilli, chiedendo scusa, adesso. I migliori di modi ci sono per perdonare, via, ci continua ad andare avanti, ma se sono piccole cazzatine io lascio sempre correre, non ci penso neanche alla verità. Caffa, ma tu dici cazzatine, ma non sono cazzatine, il problema è quello. Se è stato in cazzatine, come dici tu, era stato già risolto. Insomma, cioè con certi elementi. Parlo così, sai, ma il problema è che se io me la piglio non sono cazzati, non sono cazzatine, sono cose che uno non può sapere, non è che me la prendo a chi mi dice sto cuculione, no, dico cuculione dei dubbi li adere in culo, cioè, hai capito cosa dove ti voglio far arrivare? Sì, quello sì, beh, alla fine, vabbè, giustamente non sono cose che mi riguardano, però alla fine, per come stai parlando tu, c'è qualche elemento, diciamo, che l'ha fatta più grossa di quanto doveva fare alla fine. Beh, se parli di questo discorso, allora sono pienamente d'accordo con te. Già, ma hai capito dove sta il punto. Già, ma io devo lasciare, dai, ce la risentiamo. Hai compreso tutto allora, allora te voglio dire io, che io quando sono cose un pochettino coso, cioè no, sei più forte di me, non ti posso vedere, se non c'è niente da fare. Vabbè, la mia è un po' tutti così, non ti preoccupare, non sei solo. Va bene, ti lascio andare, allora, buon proseguimento di serata, ci sentiamo alle prossime allora. Ma gaffa, ok. Sentiamo, ciao. E a ciao, Bobo, alle prossime. Parla un'altra volta che non ti ho sentito.